sarà. Tu non stai conmigo, tu con altro sico, te starà pensando, non te starà. Tu amor sincero, io te stavo buscando, un amor verdadero. Ma se tu mi volessi, non mi voglio a te. Fosso zucchero che metti in bocca a fè e facessi più bella che sta vita mia. Non si non suona, tu sei una poesia. Ma se tu mi volessi, non mi voglio a te. Non passassi giornata, aspettavo t'ave. E sta battendo a cuore, non sentissi più. Non son passando il sonno, si faccio stai tu. Se non me ci stai. Te stavo buscando un amor verdadero. Ma se tu mi volessi, non mi voglio a te. Fosso zucchero che metti in bocca a fè e facessi più bella che sta vita mia. Non si non suona, tu sei una poesia. Ma se tu mi volessi, non mi voglio a te. Non passassi giornata, aspettavo t'ave. E sta battendo a cuore, non sentissi più. Non son passando il sonno, si va, ci stai tu. Si con me ci stai tu. Ma tu sei un tormento, sta con lì la mente. Vedo il tuo sguardo sul viso della gente. Ti voglio, non mi fa aspettare. Ti voglio, mi fatto passare. Io per te fossi pronta a mille pazzi. Menza di tu giurassi sia vita mia. Mi scelta stamattina insieme con te. Con la voglia di essere in tre. Ma se tu mi volessi, non mi voglio a te. Fosso zucchero che metti in bocca a fè e facessi più bella che sta vita mia. Non si non suona, tu sei una poesia. Ma se tu mi volessi, non mi voglio a te. Non passassi giornata, aspettavo t'ave. E sta battendo a cuore, non sentissi più. Non son passando il sonno, si va, ci stai tu. Si con me, ci stai tu.